Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. E continuiamo a fare il punto sul coronavirus. In linea con noi la dottoressa Ilaria Dorigatti dell'Imperial College di Londra. Buongiorno dottoressa Dorigatti, benvenuta. Buongiorno, grazie a lei, buongiorno a tutti. Dottoressa Dorigatti, l'Imperial College aveva già identificato in tempi non sospetti le dimensioni del problema. Come valutate i casi di contagio in Italia? Ve li aspettavate? Allora, diciamo che il nostro gruppo di ricerca, che è di base all'Imperial College, diciamo, ha suonato il campanello d'allarme in tempi non sospetti. Noi il 16 gennaio abbiamo pubblicato il nostro primo rapporto dove, diciamo, stando al numero di casi esportati da Wuhan, stimavamo un numero di casi infetti nella città di Wuhan molto maggiore rispetto a quello che era riportato dalle autorità cinesi. E dopodiché abbiamo continuato a monitorare la situazione, abbiamo stimato la trasmissibilità di questo virus, la sua severità, la mortalità, che pare essere, diciamo, leggermente più alto di quello dell'influenza H1N1 del 2009, ma comunque 10 volte minore della SARS del 2003, che è un parente stretto di questo nuovo coronavirus. Allora, nel nostro ultimo rapporto abbiamo analizzato qual è la sensibilità della sorveglianza internazionale. Abbiamo stimato che in media uno ogni 3 casi viene riportato alle autorità e questo implica che ci possano essere delle catene di trasmissione all'interno della popolazione internazionale che riescono, per così dire, a passare sotto il radar della sorveglianza. Quindi il fatto che durante il weekend in Italia ci si siano scoperti, diciamo, queste catene di trasmissione a livello locale non mi stupisce troppo, così come non mi stupirei se lo stesso succedesse in altri paesi europei nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Dottoressa Dorigatti, riguardo alle misure restrittive adottate dal nostro paese, come le valuta dal punto di vista epidemiologico? Allora, diciamo che questo nuovo coronavirus è un virus facilmente trasmissibile. In media una persona infetta trasmette, quindi passa l'infezione a altre 2-3 persone. È un virus che si trasmette per via respiratoria tramite contatti. Non si parla necessariamente di contatti fisici, ma semplicemente stando vicini ad una persona infetta che emette virus semplicemente respirando, magari tossendo, se ha dei sintomi influenzali, una persona sana può contrarre l'infezione. Quindi, ecco, per controllare l'epidemia si deve ridurre quello che gli epidemiologi chiamano l'R0, il numero medio di infetti che ciascun infetto produce, sotto l'1, e in questo caso si tratta di ridurre la trasmissione in maniera sostanziale, siamo attorno al 60%. Allora, poiché al momento non esiste né un vaccino né una cura specifica contro questo nuovo coronavirus, l'unico modo per controllare o comunque mitigare un'epidemia è ridurre i contatti all'interno della popolazione, magari andando a mirare quelle che sono le fasce d'età che sappiamo avere più contatti. Bene, per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta Facebook, ma cambiamo decisamente argomento. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta.